Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. C'era una volta il mitico fungo, lo trovavi fuori dai bar e dai locali dove tipicamente si consuma l'aperitivo. Andava a gas, dentro c'era una bombola, cosa che ne ha determinato la scomparsa per ragioni di sicurezza. Però insomma ti ci potevi rintanare sotto e goderti l'aria aperta anche d'inverno senza patire il freddo. Poi sono arrivate le lampade infrarossi. Nei paesi del nord Europa molti negozi per esempio ne tengono di accese fuori dalle vetrine con la speranza che qualche passante infreddolito ci si rifugi sotto e alla fine si compri qualcosa. Ebbene, al Sensible City Lab del Massachusetts Institute of Technology hanno messo a punto un sistema, per ora un prototipo, che sfrutta questo tipo di riscaldamento basato sull'irraggiamento per fare però qualcosa di decisamente nuovo. Il sistema si chiama Local Warming, ce ne parla il direttore del Sensible City Lab, nonché architetto, ingegnere, insomma conosciuto in tutto il mondo, soprattutto per le sue, diciamo, intuizioni che mescolano architettura e digitale. Diamo il benvenuto a Carlo Ratti, anzi il bentornato Ratti. Buonasera a tutti. Allora, intanto Carlo, ti chiedo di descriverci questo sistema, come funziona, da cosa è fatto. Ma innanzitutto è vero, appunto, l'idea è nata un po' in modo estemporaneo, proprio partendo dai funghi, ecco. Funghi che fuori nei dehors tradizionalmente distribuiscono il calore durante l'inverno, e la chiesa è come potremmo renderli in un certo senso più efficienti. E quindi l'idea è stata, oggi è molto semplice usare sensori, ad esempio sensori di prossimità per vedere dove sono le persone, oppure altri sistemi appunto per accendere e spegnere dei raggi infrarossi in modo diretto. E quindi mettendo insieme queste due cose è venuto l'idea di un po' cercare di creare un po' una nuvola di caldo che rispondesse alle persone, quindi senza andare a scaldare dove non c'è nessuno, ma scaldando solo dove c'è effettivamente qualcuno. Quindi c'è una specie, diciamo, di soffitto, immaginiamolo, dove ci sono tante lampade, però queste lampade non restano sempre accese, bensì che cosa accade? Sì, sono innanzitutto, chiamiamole lampade, ma diciamo, supponiamo che sia un sistema di emissione raggi infrarossi. Sì. Questi raggi infrarossi devono essere anche collimati, quindi devono essere anche qualcosa che non viene emesso, diciamo, in tutte le direzioni, ma viene quindi emesso un fascio, un po' come fosse un fascio di sole. E poi l'idea è di creare come fare perché ciascuno abbia in un certo senso il suo sole personale, che certo, lo segue mentre è disposto in un ambiente o mentre è fuori in un dehors. Quindi insomma queste lampade si muovono proprio, no? Questi proiettori di raggi infrarossi si muovono seguendo per esempio il movimento delle persone, si accendono e si spengono, come funziona? Ma adesso ci sono varie implementazioni, ce n'è una che è in mostra adesso a Venezia, la Biennale, che abbiamo sviluppato insieme ad Enel, e questa in questo caso l'abbiamo resa dinamica, quindi abbiamo fatto in modo che le lampade proprio girino, ruotino e si spostino. Però altrimenti si possono pensare a sistemi più semplici in cui ci sia una matrice di questi LED collimati all'infrarosso che si accendono e si spengono e che quindi creano questa specie di nuvola calda che ci segue mentre ci spostiamo in un ambiente. Ecco, qual è l'obiettivo, diciamo? Che cosa vi prefiggete? Ma diciamo che ci sono due obiettivi. Il primo è che è interessante il fatto che noi oggi riscaldiamo i nostri edifici anche quando sono vuoti. Tantissima energia d'inverno come d'estate viene utilizzata per riscaldare o per raffreddare degli spazi dove non c'è nessuno. Quindi la prima cosa è di sincronizzare le persone con il riscaldamento, vuol dire risparmi notevoli. In parte questo avviene con i termostati, ma se pensiamo un passo più in là, soprattutto in grandi ambienti industriali, certo, eccetera, diventa interessante pensare a come in realtà non dover scaldare l'intero ambiente, ma soltanto una parte, certo, con certo, questo fascio di raggi concentrato. Pochi giorni fa abbiamo parlato del caso, diciamo, della hall dell'edificio principale della Fiera di Milano, che per gran parte della settimana è vuoto, tranne durante gli eventi fieristici, è uno spazio immenso e veniva riscaldato tutto per 3 persone. Non ho presente questo spazio, ma ce ne sono tanti altri, mi viene in mente quello, la lobby di Microsoft negli Stati Uniti e molti altri, ecco, dove effettivamente se uno inizia a ragionare in questo modo, e tenendo ad esempio abbassando la temperatura media, ma poi alzandola dove ci sono le persone, può avere un risparmio, esatto, notevole. Per spazi così grandi anche può risparmiare il 90% dell'energia che di solito viene usata. Certo. Quindi efficienza energetica, cos'altro oltre l'efficienza energetica? Direi che l'altro aspetto interessante è che a quel punto, siccome il sistema è basato sul monitoraggio delle persone, sul sapere dove siamo noi, a quel punto con una semplice app del telefono possiamo anche decidere di personalizzare la nostra nuvola. Quindi un po' come la nuvoletta di Fantozzi, in questo caso non è una nuvoletta di pioggia, ma una nuvoletta di calore, di sole, che segue. Esatto, c'è chi può pensare di tenerla a 21 gradi, a 20 gradi, a 18 gradi, insomma uno può a quel punto anche customizzarla rispetto alle proprie esigenze. Grazie Carlo Ratti, avanti così. Grazie, presto. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.